Il governo della Repubblica Sociale Italiana ha avuto essenzialmente due generi di proiezione fuori dai confini italiani. Una prima proiezione è quella delle relazioni internazionali, cioè dei rapporti con gli altri paesi dell'Europa e non dell'Europa. La seconda proiezione fuori dai confini e se si vuole evitare un gioco di parole, una proiezione esterna di politica interna, vale a dire i rapporti con i cittadini, con le industrie, con i beni, con i possedimenti italiani fuori dai confini d'Italia. In questo secondo caso si tratta appunto più di proiezione nelle relazioni internazionali di questioni interne più che di vere e proprie relazioni con l'estero. Al di sopra di questo complesso di due proiezioni fuori dai confini italiani, c'è la politica estera della Repubblica Sociale Italiana, cioè quell'insieme di concetti, di ideologie, di comportamenti che hanno sostenuto dal punto di vista sia pratico sia soprattutto ideologico questa presenza di una parte dell'Italia fuori dai suoi confini. Appoggiare efficacemente e cameratescamente l'esercito germanico che si batte sul territorio italiano contro il comune nemico. Riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Con queste due semplici formule e in poche parole, Mussolini, tra il 15 e il 18 settembre del 43, già disegna tutta quella che sarà la politica estera del governo che si appresta a formare. In condizioni certo non di libertà di scelta, per due motivi. È stato prelevato da pochi giorni dal Fallschirmjäger del generale Kurt Student, a sua insaputa, senza nemmeno volerlo, è stato portato in Germania, avrebbe preferito starsene a Forlì, a casa sua, in pensione. Portato al quartier generale di Hitler, ha dovuto subire un duro attacco verbale da parte del Führer che si è ricordato a grandi linee stamattina. Sappiamo pochissimo di ciò che si sono detti, qualcosa dal diario di Goebbels, sono parole molto dure, qualche cosa dai ricordi di un amico personale di Mussolini, un giornalista socialista, certo Carlo Silvestri, che lo interrogò negli ultimi mesi di vita, e le poche altre espressioni veritiere sono in un verbale della Guardia di Finanza scritto da un brigadiere che lo ebbe in custodia per poche ore dopo il suo arresto a Dongo. E anche lì Mussolini spiega chiaramente che aveva un mitra puntato nello stomaco e che doveva per forza accettare di dirigere questo governo. In queste condizioni Mussolini è pressato dalla Germania, ma in un certo senso anche dagli elementi nazionali italiani, perché il Partito Nazionale Fascista, che il 25 luglio si è dileguato e non ha opposto nessuna resistenza al colpo di Stato badogliano e monarchico, non l'ha opposta per vari motivi. La milizia era quasi tutta in congedo sui vari fronti di guerra. Il segretario del partito ha accettato la soluzione legalitaria e ha smobilitato le poche sacche di resistenza, tra cui quella di Forlì città. Ed è stato fermato l'unico battaglione che stava marciando su Roma alla notizia della destituzione del capo del governo. Ma questo partito, che il 25 luglio ha defezionato per ragioni anche, diciamo, generali, si muove per primo dopo l'8 settembre, prima ancora di sapere se Mussolini sia vivo o morto. Il partito riapre le federazioni a Bologna, a Trieste e in alcune altre città del nord, a Verona, quasi contemporaneamente all'arrivo dei tedeschi. E di fatto l'organizzazione del partito è già attiva prima ancora che Mussolini stesso abbia riacquistato la libertà. In queste condizioni e in una situazione che già altri hanno deciso, in fondo, Mussolini torna quindi sulla scena internazionale con i proclami che ho ricordato poco fa. Cosa significano quelle poche parole di riprendere le armi a fianco degli alleati? Significano che si vuole da parte del nuovo governo riprendere non solo la direzione del governo d'Italia, come se nulla fosse successo, né nell'armistizio né nel colpo di Stato monarchico, ma riprendere di nuovo gli impegni internazionali che l'Italia aveva prima dell'8 settembre, il non riconoscere quindi l'armistizio, cioè onorare tre patti internazionali: il patto anti-Comintern, che l'Italia ha sottoscritto nel 1937, il patto d'acciaio del 1939 e prima di tutto il patto tripartito. Quindi affermare che l'Italia resta ancora legata non solo alla Germania e al Giappone come politica estera, ma anche all'Ungheria, alla Romania, alla Slovacchia, alla Bulgaria e alla Croazia che hanno firmato questo patto, alla Cina nazionale, al Manciukuo, alla Thailandia e alla Finlandia che sono degli stati associati in questo patto. Significa quindi che il nuovo governo vuole porsi come continuità, ha cancellato con queste parole non solo l'8 settembre ma anche il 25 luglio. Mussolini ribadirà in parecchie occasioni questo concetto, durante le celebrazioni della firma del patto tripartito, lo stesso 27 settembre del 43 e l'11 dicembre sia del 43 che del 44, quando c'è la ricorrenza dell'alleanza militare. Le direttrici di politica estera di questo nuovo governo quindi sono anche abbastanza semplici. È il tentativo di dimostrare la continuità istituzionale tra il governo fascista repubblicano e il governo fascista del regime. Nella continuità di questo governo si vuole dimostrare la sua legittimità storica, politica e giuridica, la sovranità di questo governo come originario, la parità di condizioni tra questo governo che ha ripreso questi impegni davanti alle altre nazioni e davanti ai paesi neutrali, affermando quindi che in Italia dall'estate all'autunno 43 non è successo niente sotto questo profilo. È una scelta senz'altro difficile, perché assumersi i carichi del patto tripartito significa trovarsi di nuovo, certo non in maniera troppo volontaria perché decide la Germania, ma trovarsi di nuovo in guerra contro le Nazioni Unite. Dichiarare quindi che dal punto di vista ideologico l'Italia fascista repubblicana riprende gli impegni, tutti gli impegni di guerra contro le Nazioni Unite. E l'Italia è ridotta oramai a circa i 3/5 del suo territorio nazionale. La risposta degli altri componenti del patto tripartito qual è? Cioè come gli altri alleati hanno visto questo governo? Viene riconosciuto abbastanza in fretta. La Germania subito il 28 settembre, il Giappone manda un telegramma il 27 settembre a firma del ministro degli esteri che è Shigemitsu, che si trova in visita nel Manciukuo e che riconosce ufficialmente il governo. Altri riconoscimenti immediati, Bulgaria, Croazia, Romania, Slovacchia, Ungheria. Poco più tardi la Birmania, la Cina nazionale, il Manciukuo, la Thailandia riconoscono sia via Berlino sia via Tokyo questo governo. Solamente la Finlandia non lo riconoscerà. La Finlandia oramai ha preso già una sua via particolare, è fuori dalla sfera di influenza diretta tedesca e tutto sommato pensa già all'armistizio che concluderà nell'autunno dell'anno dopo. Non vuole compromettersi più di tanto, riconoscendo un nuovo governo fascista italiano. Un atteggiamento prudente ma comprensibile. Ma era sincero il riconoscimento del nuovo governo che è stato portato dalla Germania e dal Giappone? Si direbbe di no. Secondo una personalità che era presente al momento della liberazione di Mussolini, cioè il Gauleiter Friedrich Rainer, Gauleiter del litorale adriatico, una testimonianza resa in prigionia in Jugoslavia nel 1947, il patto tripartito Germania-Italia-Giappone rimaneva in vita e la sovranità dell'Italia veniva rispettata. Il motivo principale fu il timore che il Giappone, nel caso della rinuncia di uno dei firmatari del patto, in questo caso l'Italia, rinunciasse anch'esso con il pretesto che con il distacco dell'Italia il patto non esisteva più. Così il Giappone avrebbe potuto prendere una via propria, quindi riconoscere il governo fascista al fine di dimostrare da parte della Germania che il tripartito esisteva ancora. Ma anche in Giappone c'è un atteggiamento analogo e direi speculare. Secondo un vecchio volume del senatore Brusasca, che è stato sottosegretario agli esteri negli anni 45-46, e che ha avuto modo di avvicinare i diplomatici che rientravano dalle sedi esterne, i regi diplomatici naturalmente, la preoccupazione principale del governo del generale Toyo, alla quale ebbero anche in seguito a corrispondere le misure sempre eccezionalmente arbitrarie e durissime prese nei riguardi dei membri della nostra ambasciata, fu quella di evitare, per quanto possibile, alla popolazione giapponese, nel grave momento della guerra e quando già gli animi cominciavano a raffreddarsi, l'impressione debilitante dell'abbandono. Cioè anche in Giappone in fondo si riconosce questo governo per non avere l'idea che è sparito uno dei tre cardini dell'alleanza. Gli altri governi dei Balcani, secondo la dichiarazione del ministro bulgaro Kirov, abbiamo dovuto riconoscere il nuovo governo fascista. Abbiamo dovuto riconoscere la Germania che impone questo riconoscimento. La Romania istituisce a Venezia un ufficio di rappresentanza e, secondo le parole del ministro Odenigo, che era a Bucarest, per dimostrare, quando occorra, che la Romania non ha mai riconosciuto di fatto la Repubblica Sociale Italiana. Il governo ungherese usa la forma più ristretta e prudente possibile di riconoscimento. In Croazia le cose vanno ancora peggio e lo vedremo nel corso di questa relazione. In Estremo Oriente decidono tutti i giapponesi, quindi le varie nazioni e i vari governi che riconoscono la Repubblica Sociale lo fanno per obbligo. La ripresa italiana nei paesi minori dell'Europa, l'Albania, il Belgio, la Grecia, l'Olanda e la Serbia, non è una ripresa diplomatica nei confronti di governi, è una ripresa nei confronti delle potenze, della potenza tedesca occupante che rappresenta l'esecutivo vero e proprio. Difatti, in questi paesi, alla ripresa di carattere politico, l'istituzione di consolati, non si ha una ripresa di carattere economico-politico completa. Poi vi è un altro aspetto. La Bulgaria, la Croazia e la Romania permettono ai diplomatici del re di continuare la loro attività. Mantengono aperte le legazioni, al punto che in Ungheria, sino al marzo 1944, entrambe hanno gli stessi privilegi. Per l'Ungheria, in Italia, esistono due governi ufficiali. Solamente dopo l'invasione tedesca del marzo 44, l'operazione Margarete, la regia rappresentanza verrà tutta portata via e internata a Mauthausen. E questi stessi governi balcanici accreditano poi a Salò dei diplomatici di basso grado, talmente basso che il rappresentante italiano presso il corpo diplomatico deve scrivere una lettera piuttosto preoccupata al sottosegretario agli esteri, Serafino Mazzolini. Caro Serafino, più volte il barone von Plessen, e un accenno mi è stato anche fatto dall'ambasciatore Idaka, mi ha chiesto per quali ragioni, mentre noi abbiamo accreditato in vari paesi del tripartito, come in Ungheria e in Bulgaria, dei funzionari con grado e titolo di ministri plenipotenziari, questi paesi si limitano ad essere rappresentati presso il governo repubblicano da semplici incaricati di affari. Ne sembra che abbiano intenzione di sostituirli con titolari veri e propri delle loro legazioni. Questo è il panorama quindi che ci si trova di fronte. I paesi neutrali sono ancora più cauti, non vogliono esporsi troppo con riconoscimenti. L'unico caso di rapporti abbastanza buoni è quello con la Repubblica di San Marino, che è compresa nel territorio italiano. Il governo si adegua a quello italiano, viene ricostituito il Partito Fascista Repubblicano, già prima repubblicano, adesso repubblicano di nuovo, perché è una repubblica come istituzione, e il Partito Fascista Repubblicano Sammarinese prende il governo e guiderà questo governo fascista per ragioni di opportunità sino a settembre del 44. Ma le altre nazioni, Argentina, Portogallo, Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Turchia, il Vaticano, hanno solamente delle relazioni di fatto, attraverso dei canali ufficiosi, relazioni discrete, soprattutto dal punto di vista economico, ma niente di più. Da un punto di vista dell'affermazione di sé, il governo della Repubblica Sociale riconosce unilateralmente degli altri governi. È una forma abbastanza singolare. riconosce il governo della Repubblica delle Filippine, ad esempio, in maniera unilaterale, un governo che si forma nell'ottobre 43, quindi questo governo che nasce per la forza tedesca, per l'imposizione tedesca, riconosce il governo che nasce per l'imposizione giapponese. Un aspetto del tutto particolare invece delle relazioni internazionali del governo repubblicano è quello con la Francia di Vichy. Gli storici francesi ancora oggi preferiscono non parlarne e negano che vi siano state relazioni di qualunque genere. Invece relazioni ci sono state, l'ambasciata a Parigi era ancora aperta, un rappresentante era in contatto con Ferdinand de Brinon, che era il delegato della Francia di Pétain presso le potenze occupanti. Relazioni che si stavano ancora ampliando e migliorando nella primavera del 1944 e che avrebbero potuto portare al ristabilimento di relazioni paritarie, non solo precedenti all'8 settembre, ma precedenti addirittura al 10 giugno del 1940. In realtà cade Parigi, la situazione è malata e non si può andare avanti su questa strada. Tuttavia bisogna ricordare che tutti gli altri esponenti del governo di Vichy sceglieranno come ultima sede dopo Sigmaringen il lago di Garda e arriveranno tutti in Valtellina. Questo dal punto di vista fattuale. Dal punto di vista ideologico, cioè della politica estera vera e propria, la dichiarazione di politica estera principale, non quelle di carattere propagandistico, ma propriamente come manifesto politico, è data dal manifesto di Verona del 14 novembre 1943. Il primo congresso, l'unico, primo e ultimo congresso del Partito Fascista Repubblicano, afferma: in politica estera, fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della patria nei termini marittimi ed alpini, e vi sottolineo per adesso alpini perché è la parte più importante, segnati dalla natura, dal sacrificio di sangue e dalla storia, termini minacciati dal nemico con l'invasione e con le promesse dei governi rifugiati a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità di spazi vitali, Lebensraum, questa è una voce tipicamente tedesca, ad un popolo di 45 milioni di abitanti, sopra un'area insufficiente a nutrirli. Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità europea, con la federazione di tutte le nazioni che accettano i seguenti principi fondamentali: eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro continente, abolizione del sistema capitalistico, valorizzazione a beneficio dei popoli europei, di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in specie musulmani, che come l'Egitto sono già civilmente e nazionalmente organizzati. Nel manifesto di Verona ci sono due ordini di idee che sostengono tutta la politica estera della Repubblica Sociale Italiana. Un motivo è di carattere immediato e riguarda ancora il periodo bellico. Un altro è, diciamo, un motivo del futuro, nel caso molto ipotetico di una vittoria o completa o di pace di compromesso della coalizione del tripartito. Dal punto di vista dell'unità territoriale italiana, il concetto espresso e ricordato da Mussolini un anno dopo nel discorso del Teatro Lirico è uno: si parla del possibile separatismo siciliano. Ma sotto a questa voce del separatismo siciliano, in realtà ci sono altre questioni più importanti che Mussolini non può nominare pubblicamente e fa solamente nel manifesto di Verona, pure però con forza. Si può parlare di altre questioni territoriali minori, per esempio, per ottenere il riconoscimento della propria legazione in Cina, l'Italia deve rinunciare alla possibilità di avere delle guarnigioni, abolire i trattati ineguali e restituire la concessione di Tianjin, che era un residuo della guerra dei Boxer del 1900. Per esempio, questa perdita territoriale non viene più nominata, si deve sacrificarla e via. La questione dell'integrità territoriale più spinosa sono quei termini alpini di cui si è detto un momento fa. Ma cosa può voler significare termini alpini? Chi li mette in discussione? Non certo gli alleati. In un manifesto ufficiale di politica estera della Repubblica Sociale si è potuto far passare già dall'inizio il problema dell'Alto Adige, in maniera ufficiale, perché chi minaccia quei termini alpini sono la Germania e la Croazia. Ed è questo il nucleo della politica estera dal punto di vista territoriale. È quella guerra profonda, sorda, feroce, che si combatte fuori dalla propaganda ufficiale per salvare due zone in particolare. La Croazia, per riconoscere il rappresentante del governo nazionale repubblicano, pretende la restituzione con nota diplomatica ufficiale dell'ottobre 43 di tutti i territori che sono stati acquisiti dall'Italia non solo nel 1941 ma anche nel 1919. Di fronte a questa richiesta, evidentemente che cozza contro la logica del momento, l'opportunità politica e i sentimenti di nazionalismo della Repubblica Sociale Italiana, si ha questo caso abbastanza singolare. La Croazia è l'unico paese che riconosce la Repubblica Sociale nel quale non c'è un rappresentante della Repubblica Sociale. Non verrà mai mandato a Zagabria un diplomatico. Resterà un segretario di fascio a reggere questa legazione fantasma. Perché per mesi e mesi, tra battaglie diplomatiche, tra schermaglie, si rifiuterà di riconoscere questa situazione dopo una nota offensiva di quel genere. L'altro caso, cioè la rivalità con la Germania, è dato dalle notissime zone di occupazione litorale adriatico e prealpi. La difesa di queste zone viene tentata dal punto di vista della politica estera con i mezzi più svariati. I colloqui informali con i Gauleiter da parte degli alti esponenti della politica italiana, le note diplomatiche blande, molto tranquille, molto concilianti. Infine si passerà ad un altro sistema, quando in particolare la Germania tenterà di ottenere un baratto, l'Alto Adige alla Germania, il Canton Ticino, cioè un cantone di lingua italiana della Svizzera, all'Italia, ciò che vuol dire prevedere anche la distruzione della Confederazione, ancora nel 1944. E questo genere di baratto viene proposto dal gruppo di Wolfgang Steinacker, che è uno dei rappresentanti del pangermanesimo di Innsbruck. Il suo rivale italiano, Aurelio Garobbio, che rappresenta il gruppo Catena Mediana delle Alpi, che si oppone a questi progetti, mi ha proprio scritto: il colloquio nel quale il Duce mi parlò dell'offerto scambio Alto Adige-Ticino, offrivano la pelle dell'orso, è un detto italiano ma penso si possa tradurre anche in tedesco, offrire la pelle dell'orso prima che sia ancora ucciso, e durante il quale, interrompendo il mio dire, perché Garobbio disse, ma io come ticinese, lui era di Mendrisio, pestò un pugno sulla scrivania, ma io l'Alto Adige non lo mollo, ebbe luogo il 16 febbraio 1944. Quindi già all'inizio del 1944 si tenta di arrivare ad una soluzione diplomatica, ma anche molto particolare di questa questione. Ciò dimostrerebbe, tra l'altro, che non si pensava solo ad una occupazione momentanea, direi ci sono centinaia di documenti che lo provano, ma se ne occorresse uno in più, che si tentava di arrivare ad una soluzione territoriale definitiva. Del resto nell'aprile 1944 viene istituito ad Ala un posto di frontiera. I documenti della Repubblica Sociale non sono più validi per attraversarlo. Come viene portato avanti questo tentativo di difesa territoriale, base della politica estera della Repubblica Sociale? In maniera clandestina, sia per l'Alto Adige che per il litorale adriatico. Nell'ambito del Partito Fascista Repubblicano viene creato un ufficio ZA, zona alpina, affidato al più alto esponente del partito e incaricato degli affari riservati, Puccio Pucci. Questo ufficio risponde solo direttamente a Mussolini. L'incarico delle operazioni riservate viene dato ad un alto ufficiale italiano, un nobile di Rovigo. Viene creata una sezione speciale, composta di elementi del partito, di elementi della Legione Autonoma Ettore Muti, tutti italiani, tutti antitedeschi. Questo ufficio comincia a funzionare nella primavera del 1944. Si prendono accordi con elementi moderati della resistenza in Trentino e Alto Adige. Si parte per una missione. Il 4 giugno del 44 l'automobile con questo ufficiale sta tornando verso Maderno. C'è un incidente di macchina, muoiono tutti salvo uno, è ancora vivente. La borsa dei documenti non si trova più. La macchina, visionata dall'autoparco del partito, risulta sabotata. Per l'ufficio ZA è quasi immediato il tracollo. Non si sa molto di cosa contenesse quella borsa. I referenti erano, come detto, alcuni alti ufficiali della milizia che avevano sede qui a Trento e alcuni esponenti moderati della resistenza. L'ufficio ZA viene parzialmente smantellato. Il 6 giugno 1984, 40° anniversario di quell'incidente di automobile, su un quotidiano di larga diffusione di Milano compare un necrologio di questo alto ufficiale, caduto in combattimento, dice, e ci sono i nomi dei componenti dell'ufficio. L'ufficio ZA viene passato verso dicembre 44 nelle mani del vice segretario del Partito Fascista Repubblicano Antonio Bonino. Avrà una vita piuttosto dura e stentata. Il referente a Trento è un certo console Mezzadra. Viene raccontato dell'ufficio di non girare con un'automobile con targa delle Brigate Nere. Non sappiamo molto di quali fossero i sistemi usati da questo ufficio per tentare di controbattere la presenza tedesca e il divieto di costituire una sezione italiana del partito. A quanto mi ha detto il delegato dei fasci all'estero ed oltremare, il compito era formare il partito fascista repubblicano clandestino in Trentino e Alto Adige. Questo è quanto si conosce ad oggi. Per il litorale adriatico viene creata una segreteria particolare che risponde solo direttamente ed esclusivamente a Mussolini, affidata al triestino Eugenio Apollonio, capo di gabinetto del Ministero degli Interni. Il dossier che raccoglie è scottante. Quando Bufarini Guidi viene licenziato nel febbraio 1945, le SS di Kappler arrestano Tamburini e Apollonio, i due componenti del Ministero degli Interni che si occupano di questa vicenda, e sequestrano tutto il carteggio. Ci sono alcuni giorni di paura a Salò, per quali potrebbero essere le reazioni. Non si sa anche in questo caso di preciso quale fosse il contenuto di quel carteggio. Ancora oggi non è stato ritrovato. Di questo ufficio si sono perse poi le tracce perché non è stato più ricostituito. Una parte è stata ereditata dal comandante Libero Sauro che a Venezia, dopo essere partito dall'Istria dove è stato allontanato dalla MDT, Milizia Difesa Territoriale, ha creato un centro studi nella primavera del 45. Dell'ufficio precedente, smantellato dai tedeschi, faceva parte Francesco Frattarelli, ex commissario federale di Gorizia, fatto arrestare da Rainer e chiamato per questo motivo alla segreteria particolare di Mussolini, a lavorare con Eugenio Apollonio. Le notizie sono appunto molto scarse. Questi erano i tentativi per controbattere la presenza tedesca nel litorale. Il 7 marzo 1945 il Deutscher Berater di Gorizia è rimasto vittima di un attentato, era Gerhard Osterreicher. Subito in quei giorni si spargeva la voce in zona tra i combattenti della Repubblica Sociale che era opera del Ministero degli Interni, dei servizi speciali, che avevano agito con una bomba farfalla. La cosa è provata in maniera indiretta perché per rappresaglia i tedeschi hanno fatto assassinare, hanno fatto uccidere da un gruppo di cetnici un intero drappello della Milizia Difesa Territoriale l'11 aprile, per rappresaglia. E con questo si può chiudere l'aspetto di una politica estera tutto sommato abbastanza inusuale. Però era per questa digressione, era per riallacciarsi al discorso fatto stamattina. Era una guerra civile, era un governo subordinato alla Germania. Che genere di alleanza era? Non c'era un'alleanza, c'era una rivalità e neanche tanto, diciamo, profonda, piuttosto superficiale, piuttosto alla superficie. Chi poteva guardare vedeva e sapeva cosa c'era. Da un punto di vista poi delle relazioni internazionali, della politica estera, rifacendosi sempre al manifesto di Verona, la questione delle colonie. L'Italia aveva perduto tutte le colonie, ma si era detto nel manifesto mantenere buoni rapporti con i popoli musulmani. Comprensibile, molti di loro erano antifrancesi e antibritannici, tutti coloro che erano subordinati ai mandati di Palestina, ad esempio. Quindi la Repubblica Sociale ha mantenuto in vita degli uffici studi, delle radio, dei giornali, o gestiti da arabi, o di propaganda araba. La politica estera è quindi fatta anche attraverso il giornalismo. Uno degli ultimi esempi di questo genere era il tentativo di creare una commissione di studio che venne proposta dal direttore del periodico L'Azione Coloniale, che per tutte le colonie oramai si occupava solamente di questioni vagamente legate al Medio Oriente e al Vicino Oriente. Ci sono poi degli altri aspetti meno indagati ancora della politica estera della Repubblica Sociale. Nel Manifesto di Verona si parla addirittura di una comunità europea. Si parla di questa unificazione dell'Europa. E difatti la Repubblica Sociale Italiana è l'unico paese che dall'inizio, si preoccupa di dare una base ideologica a questi concetti. Nel discorso sempre del teatro lirico, Mussolini stesso affermerà: «Mi limito a dire che la costituzione di una comunità europea è auspicabile e forse anche possibile». Ma tengo a dichiarare in forma esplicita che noi non ci sentiamo italiani in quanto europei, ma ci sentiamo europei in quanto italiani. La distinzione non è sottile, ma fondamentale. Quindi in fondo un'Europa un pochino diversa da quella che poi si va realizzando in questi giorni. Ma l'interesse della Repubblica Sociale per questo genere di dibattito è forte, e tanto forte non solo per il dibattito teorico in sé, è che si tratta di dimostrare che questo governo deve partecipare di diritto a questa nuova Europa. Non può essere un troncone d'Italia o un troncone di governo fantasma rappresentato in un'Europa dominata dalla Germania. È così forte questa richiesta che parte dall'Italia, che alcuni altri paesi sentono il richiamo. La Romania, ad esempio. Risulta che il Partito Fascista Repubblicano abbia erogato fondi alla Guardia di Ferro romena ancora nel 1944. Ma più di tutti l'Ungheria. Il documento è datato estate 1944 ed è tratto dai taccuini di Ferenc Szálasi, che era il leader dei Croce Frecciati, Niles Keresztes Párt, il Partito Nazionalsocialista Ungherese. Non erano ancora al potere, ma avevano grandi ambizioni. E in questo documento si legge, questa è una collazione del documento, non vi sto a leggere tutto, sotto la guida di Hitler e del suo vicario Mussolini avrebbe dovuto essere costituito un supremo Stato Maggiore d'Europa, formato dai delegati degli Stati legati a Berlino e Roma, dei governi in esilio che restavano nell'area tedesca e italiana legati tra di loro. Più oltre sarebbe stato partecipante autorizzato ogni Stato europeo che risentisse del nuovo spirito nazionalsocialista del tempo. Come rappresentanti, Szálasi propose i leader dei rispettivi partiti fascisti e resti di partiti nazionali, così per esempio Horia Sima per la Romania, Vlasov per la Russia, De Grel per il Belgio, Mussert per l'Olanda, Quisling per la Norvegia ed egli stesso per l'Ungheria. Szálasi manda una copia di questo documento a Mussolini. Mussolini è entusiasta e spinge il figlio Vittorio a scrivere ad un addetto tedesco all'ambasciata in Italia, Albert Prinzing. Qui è Vittorio Mussolini che scrive: «Sai anche come considero grave l'errore iniziale della propaganda politica tedesca di non aver definito sin dall'inizio gli scopi della guerra, cioè il nuovo ordine, e di non aver finora ufficialmente dato nessuna notizia sulla sistemazione europea dopo la vittoria. La carta atlantica è un pezzo di carta, ma ha avuto un valore enorme. I nostri avversari già si radunano per discutere i problemi della pace, noi ancora quelli della guerra. Oggi si parla di Europa, di idea napoleonica, di Mazzini, per creare un fronte continentale, per convincerci che questa è una guerra del risorgimento europeo, ma è molto tardi e si fa troppo poco. Sai pure come ho propugnato una solenne adunata, per esempio in Vienna, dei capi delle nazioni europee, cioè del Führer, del Duce, di Orti, Antonescu, Laval, Pavelic, Quisling, per riaffermare l'unità europea. è il documento di Salasi tradotto nella richiesta italiana e presentato alla Germania nell'agosto del 44. Un disegno grande di politica estera. La Germania come risponde? È una risposta che nel 10 agosto l'SS Obergruppenführer Lammers dà al Reichsleiter Rosenberg. Quando sia giunto il momento di pubblicare ed anche di valorizzare politicamente i principi di un nuovo ordine europeo, è una questione che solo il Führer dovrà decidere. All'occasione io interpellerò il Führer circa la sua volontà in proposito, quindi niente. Ma questo documento non cade nel vuoto. La delegazione italiana al terzo congresso dell'Unione tra le associazioni nazionali dei giornalisti che si svolge a Vienna nel dicembre del 44 lo riprende un'altra volta e in particolare domanda questo, ed è sempre la stessa direttrice di politica estera, che a conclusione del quarto convegno si fissino dei punti programmatici a carattere definitivo. La delegazione italiana, rendendosi conto delle particolari esigenze determinate alla stampa della situazione di guerra, propone altresì che il quarto convegno, accanto al tema politico, ne abbia uno di carattere tecnico-professionale sul tema iniziativa e coordinamento della propaganda di stampa di guerra. Propaganda, ma c'è anche un'altra richiesta più precisa. Che a conclusione dei suoi lavori il terzo convegno inviti il giornalismo europeo ad interessarsi concretamente e costantemente dei problemi della nuova Europa, che si nomini una commissione di studio destinata a formulare i postulati dell'ordine nuovo, che il quarto convegno, da riunirsi al più presto, abbia il tema seguente, i principi del nuovo ordine europeo, e che adesso riferisca alla predetta commissione di studio, ancora la Repubblica Sociale Italiana che si fa portatrice di questa richiesta. E difatti la Germania, pressata, nel gennaio 1945 convoca a Weimar per 3 giorni un congresso intitolato Europa in der Entscheidung. Al convegno di Weimar partecipano 3 rappresentanti della Repubblica Sociale Italiana: Goffredo Coppola, direttore dell'Istituto Fascista di Cultura, Antonino Sammartano, che è un funzionario del Ministero della Cultura Popolare, il sottotenente Giuliano Magnoni, che rappresenta l'esercito repubblicano e che io ho avuto la fortuna di avvicinare, è ancora vivente. Si è trattato di un congresso abbastanza interessante, tutto sommato. Le proposte italiane sono state presentate, pochissimo, è finito in pratica. Un'esperienza interessante, come ho raccontato seppur discorso in un mio libro. La Germania e le forze che sostenevano il partito tedesco organizzarono a Weimar nel gennaio del 45, quindi merita di essere sottolineata la data, nel gennaio del 45, un convegno culturale e politico dedicato alla nuova Europa. Una nuova Europa che si presumeva avrebbe potuto ancora sorgere, questa era ancora la fede di quei momenti, dalla fine della guerra e della catastrofe. Una nuova Europa basata sui movimenti giovanili, direi di ispirazione fascista quindi, della quale erano esponenti vari capi del fascismo europei. Una delle figure che almeno per me ha avuto una rilevanza particolare è quella di Vlasov, il quale partecipò al convegno come rappresentante del movimento russo di rivolta al governo sovietico. Questi sono temi anche di una certa attualità. Pur sottolineando che, e lo ripeto oggi come ne riferì allora, Vlasov nulla disse e nulla fece mai contro la Russia, contro il suo paese, ma sempre soltanto contro il regime comunista sovietico. Si discusse durante un paio di settimane, fummo ospiti della Gasthaus del Führer a Berlino e poi rientrammo in Italia, ove io riferii del convegno dapprima a Mazzolini, sottosegretario agli esteri, e poi a Mussolini, durante una serie di incontri da lui voluti durante 4 giorni, la mattina presto a Villa Feltrinelli. Quindi la politica estera, dal punto di vista della Repubblica Sociale, non era poi così vuota di contenuti ancora. Un'ultima annotazione per chiudere. Accanto a questa richiesta partita a Vienna e poi realizzata nel gennaio a Weimar, ce n'era un'altra di gestione politica più concreta. L'Italia voleva riaffermare ancora un punto di politica estera fondamentale. Mussolini lo avrebbe riproposto nel suo discorso al Teatro Lirico, ma già a Vienna era sbozzato, delineato. La direttiva seguita dalla delegazione italiana al convegno dell'Unione Giornalisti a Vienna è stata quella di riaffermare che se v'è stata una casta politica che ha tradito, v'è un popolo che non ha defezionato, e di sottolineare l'imponente tributo di forze, di spirito e di sangue che l'Italia repubblicana ha offerto ed offre alla causa dell'Alleanza e dell'Europa, affinché esso sia conosciuto e adeguatamente apprezzato dalla stampa internazionale e costituisca un positivo elemento di propaganda e di precisazione storica. Il rifiuto del concetto dell'Italia che ha tradito, questo nelle parole di Mussolini, l'Italia non ha tradito. E rovesciare la posizione dell'Italia che ha tradito come mezzo per sottomettere l'Italia, usarla come strumento di guerra, per portare via gli uomini, la manodopera, i soldati, i macchinari. L'Italia stava lavorando e lavorava suo malgrado per la Germania. Sulla fine del progetto della Carta Atlantica, Mussolini avrebbe poi detto, pochi giorni prima di morire, ad un prefetto a disposizione che ricevette a Garniano: «I tedeschi perdono sempre un'ora, una battaglia, un'idea. Ho addirittura consunto i miei polmoni per persuaderli, subito dopo la promulgazione della Carta Atlantica, a redigere un documento che si contrapponesse a quelle dichiarazioni di immenso valore propagandistico. Nulla! Parlano sempre di ordine nuovo, ma si sono ben guardati dal definirlo con esattezza, anche approssimativa, e lasciano adito al sospetto che l'Europa, in codesto ordine nuovo, non sarà che poco più di un protettorato germanico». 18 aprile del 45. Un'ultima domanda ci si può fare. Poteva Mussolini credere veramente di svolgere un ruolo sulla scena internazionale dell'epoca o di poter fare della politica estera? Il 27 settembre del 43 riceveva alla Rocca delle Caminate il designato segretario generale al Ministero degli Esteri, Serafino Mazzolini, e in quell'occasione gli disse anche in maniera molto amara: «Del resto, nelle condizioni in cui ci troviamo, saremo oggetto e non soggetto della politica internazionale. Ciò vuol dire che non si farà e non si potrà fare politica estera, ma soltanto si cercherà di salvare quello che potrà essere salvato». Grazie.